This is not an exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. E buon pomeriggio anche oggi a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, nonché al dottor Scarpa, dottor Corrias, qua in studio con me. Siete sempre qua di This Is Not an Exit. Buonasera a tutti e a tutti, e anche a lei, dottor ingegner geometra Ferrari. Poi scelga lei quale preferisce, insomma. Però direi di cambiare ogni volta. Cambiamo, ci ampliamo le nostre conoscenze di carta. I nostri titoli. I nostri titoli. Come gira? Oggi abbiamo aperto con un bel pezzo un po' enfatico, molto, come dire, melodico anche rispetto ai nostri standard. Stiamo parlando dei Manic Street Preachers, siamo più o meno nel 1992, epoca di uscita di questo singolo, quinto singolo addirittura per loro. I Manic Street Preachers avevano avuto gli intenti ben chiari fin dal principio. E che intenti? Avevano dichiarato un loro manifesto subito, da subito. Volevano diventare una dei band più famose del mondo e vendere più dei Guns N' Roses tra i loro paladini, quindi vendere all'esordio più di 16 milioni di copie. E non solo, e fare anche il tour con 4 date in uno stadio particolare, se non sbaglio, da headline. Wembley. Dopodiché si sarebbero sciolti, invece sono ancora fra di noi. Vabbè, evidentemente il grande successo non hanno avuto. Comunque, a parte questo, insomma, di colore, cronaca di colore, dobbiamo dire che è stato un gruppo molto importante per una certa ideologia, un certo modo di vedere lo show business, perché loro comunque parlavano di tematiche abbastanza socialiste, facevano anche concerti a Cuba, hanno avuto occasione di suonare anche a Cuba, e quindi venivano un po' dalla scuola, quella del post-punk inglese, un po' quella dei Gang of Four di Leeds o del pop group di Bristol. E loro sono un gruppo gallese, si occupavano anche delle tematiche dei minatori. Sappiamo che comunque il Galles è un posto, è una nazione abbastanza famosa anche per quello, no? Per le lotte dei minatori, a parte, insomma, famosa per il rugby, per essere una zona di rugbisti, però anche per la storia dei minatori. Quindi loro si sono preoccupati anche di queste tematiche, e comunque per un periodo che vedeva dall'altra parte dell'oceano o il nichilismo del grunge, ricordiamo che nei primi anni 90 scoppiava quello, oppure l'edonismo dei Guns N' Roses. Insomma, un qualcosa di diverso rispetto alla moda del tempo, no? Sia dalla parte statunitense che inglese. Tematiche socialiste che non si sentivano a un certo livello dai tempi, appunto, del post-punk fine anni 70. We'll be right back. Manic Street Preachers con noi oggi a This Is Not An Exit. Eh sì, erano un gruppo particolare per questi anni. Non so quanto fortunati o sfortunati siano stati a non avere il successo premeditato fin dagli inizi, anche perché, appunto, come dicevamo prima, abbiamo appena ascoltato due brani, appunto, politicamente, diciamo, impegnati. Il primo parlava dello svuotamento della natura capitalistica del vivere, quindi il comprarsi una moto, qualsiasi altra cosa per soddisfarvi, ma che poi lascia il classico vuoto. Tematiche, appunto, già scontate ai tempi del post-punk, ma che in questa fine degli anni Ottanta tutti i gruppi, anche di successo, soprattutto inglesi, se pensiamo ai gruppi della scena di Manchester, che puntavano a un grande sballo, come gruppi come, che ne so, quelli di Shaun Ryder, o gruppi anche come Black Bloody Valentine, che erano molto introspettivi. Beh, loro non erano così, lo dicevano anche apertamente. Noi siamo figli di minatori, di una generazione di minatori, comunque di una cultura operaia che prevede il miglioramento di se stessi e anche la lotta politica. Ma poi non si è mai capito perché cercassero di entrare da subito in contatto con un'etichetta discografica come la Warner. Ricordo che i Manic Street Preachers, prima ancora di aver pubblicato un album, avevano già un contratto molto grosso di distribuzione, appunto, con la Warner Brothers, e partirono inizialmente, altra cosa strana, con un doppio LP. Insomma, erano un gruppo piuttosto controverso fin dagli inizi, e queste cose non furono recepite molto facilmente dalla critica musicale, tant'è che sono sempre stati un gruppo considerato ambiguo. A un certo punto tutto ciò sfociò in un'intervista sul backstage di un concerto, dove uno dei quattro, per far capire all'intervistatore, che poi sarebbe diventato un famoso presentatore radiofonico inglese, allora lavorava a Musical Express, per fargli capire, insomma, che non stavano scherzando, si tatuò, per modo di dire, con una lametta di rasoio, quindi con un abbondante spargimento di sangue, si tatuò sul braccio sinistro 4 Real, per far intendere a tutti, tramite il giornalista, che rimase ovviamente esterrefatto, che loro facevano sul serio, appunto. Un gesto prettamente punk, proprio alla Sea Divisions. Con 17 punti di sutura, tra l'altro. Between the billboard masturbation across the highways of metallic isolation, there lies the deafening screaming of millions, wiping out the diseased pages of apathy that bleeds on innocence. We'll be right back. E siamo ancora qua, sempre con Manic Street Preachers, un sacco di singoli da questo album doppio, penso 6 singoli addirittura. E il uno dei quattro Manic, era uno di una cosa particolare che avevano i Manic, tipicamente post-punk, era la divisione schietta dei compiti. Allora, Nicky Wire oddio, non mi vengono più i nomi, scusate. Comunque, in due facevano i testi e in due facevano musica e arrangiamenti. Erano rigidamente separati, un po' come facevano i pop group, appunto, in un'unità produttiva vera e propria. Anche perché un periodo, se non sbaglio, alcuni di loro provarono a scrivere testi, ma abbandonarono subito per difficoltà abbastanza importanti, quindi dopodiché, insomma, divisi, insomma, ognuno faceva quello che sapeva fare meglio e poi dopodiché nient'altro, insomma, classico gruppo con i compiti ben divisi, ma per certi versi è giusto e è meglio così, nonostante poi il periodo all'inizio partirono come gruppo punk, un po' insolito avere queste divisioni abbastanza settoriali per quel tipo di roba lì, nonostante poi l'attitudine fosse prettamente Sex Pistols, Guns N' Roses, se non sbaglio. Sì, e poi l'altra cosa strana, appunto, dicevamo, oltre a questa, era che sì, inizialmente non erano più dei ragazzini, erano un po' che erano in giro, ma il principale scrittore, il principale compositore di testi era quello che era probabilmente il più colto di loro, l'unico che aveva fatto l'università, scienze politiche, non trovandosi esattamente a proprio agio. Si chiamava appunto Richey Edwards ed era inizialmente, non sapendo suonare, il loro factotum. Poi però, visto che era quello con più idee e più concetti in testa, divenne praticamente un membro imprescindibile della band. E fu quello appunto che si incise, probabilmente quello che ci credeva più di tutti in quello che diceva. In questo stava anche un po' l'ambiguità della band. Se gli altri tre erano un po' più scafati, avevano già capito come girava il music business, perché era comunque della metà degli anni Ottanta, che erano bene o male su e giù per furgoni, giù di lì, etichette indipendenti, però qua siamo già nel 91-92. Sì, poi Richey invece entrò dopo, probabilmente più ingenuamente, ma anche credendoci di più. Infatti gran parte dei testi sono veri quando composti da Richey Edwards, e fu lui che si incise sul braccio, grazie a questo episodio, non penso l'abbia fatto appositamente. Ovviamente la casa editrice sfruttò tantissimo questo episodio per pubblicizzare il disco. Lo show business aveva doppie facce che si stavano cominciando a manifestare. Sì, che poi la cosa strana, insomma, che loro si formano nell'86, però il primo lavoro vero e proprio a lunga distanza è del 92, quindi ci hanno messo un bel po', prima andando avanti con dei singoli, concerti in giro, poi alla fine hanno fatto davvero il botto con questo album. E sì, ricordiamo che comunque hanno venduto tanto anche negli Stati Uniti, quindi sì, alla fine si può dire che è abbastanza ambiguo come gruppo, perché da un lato strozzavano l'occhio al music business, poi magari facevano tematiche socialiste. Vabbè, un po' possiamo dire dall'altra parte dell'oceano c'erano i Rage Against the Machine, che facevano più o meno lo stesso discorso, se vogliamo fare un confronto, ecco. We'll be right back. potenza delle major, potenza della Sony, scusate, non era Warner Brothers, mi sono sbagliato prima, comunque, potenza delle major, questo brano tratta di sfruttamento, insomma, della prostituzione, comunque delle donne, del lavoro femminile, e chi c'era come seconda voce? Uno dei pornostar più famosi dell'epoca, Tracy Lords, che, insomma, non è che ogni gruppo all'esordio riesca, oltre a piazzare sei singoli bene o male nelle classifiche, a ingaggiare Tracy Lords per parlare, per dare peso, appunto, per far vedere che veramente facevano sul serio. Ma anche poi, tra l'altro, Tracy Lords spacca, una gran cantante, mi è piaciuto un sacco. Non male. Beh, diciamo... sì, i brani erano ben arrangiati, devo dire che Manic Street Preachers sapevano sicuramente arrangiare, suonare, avevano un gran gusto pop. Sì, decisamente. E comunque per dare, appunto, corpo alle loro rivendicazioni socio-culturali, politiche, chiamatele come volete, avevano invitato qualcuno sul pezzo, insomma, chi poteva rappresentare meglio nell'immaginario dell'epoca lo sfruttamento del lavoro, insomma, della prostituzione, comunque fatta su larga scala, come Tracy, se non una come Tracy Lords. Bene, questo è Red Città del Capo, ricordiamo 94.7 96.250, e questa è This Is Not an Exit. Stasera, insomma, parliamo dei Manic Street Preachers, e buon ascolto. Sempre This Is Not an Exit, sono le 16:12 minuti primi, siamo in diretta, e questi erano sempre i Manic Street Preachers, molto bravi, molto, come dire, anche metodici, metodicissimi, non mi viene bene, comunque talmente organizzati che per tutto non poteva andare per filo e per segno. Infatti, come ogni sana maledizione al rock vuole, I 27 anni sono stati fatali anche per Richie Edwards. Non si è mai capito come, ma Richie Edwards a un certo punto aveva dato vari segni di squilibrio. Abbiamo detto prima, era quello forse con più idee in testa, quello che più aveva, ci credeva nelle cose che scriveva, e magari meno metodico del gruppo, quello meno musicista, e quello che magari aveva avuto problemi anche precedentemente, già ai tempi del college, comunque problemi di inserimento prettamente sociale. Beh, insomma, verso la fine del 93 comincia a dare problemi seri di anoressia, di alcolismo, bla bla bla, e poi a un certo punto, e non è stato l'ultimo della serie, ma sicuramente non il primo, a 27 anni la sua macchina viene trovata, siamo già nel 1995, la sua macchina viene trovata vicino a un ponte abbandonata su una stazione di servizio, e il suo corpo, comunque Richie in generale, non verrà mai più ritrovato. Sì, poi la morte presunta viene ufficializzata nel 2008, quindi hanno aspettato più di 10 anni per ufficializzare, insomma, la morte del musicista inglese. È stata, insomma, una perdita importante sia per il gruppo che, insomma, per la scena alternativo inglese. E loro sono andati avanti, hanno fatto anche dischi che hanno venduto anche di più forse dei precedenti, però insomma è sempre mancato poi quella genialità, no? Un po' alla come possiamo dire, forse un po' la Syd Barrett con i Pink Floyd, no? Mancato un po' quel diamante impazzito, sì, però va bene, il gruppo è andato avanti, ancora suonano, insomma. Se non sbaglio, giro. Poi subito dopo la morte pensarono seriamente di sciogliersi perché non avevano più ragione d'essere. Poi la famiglia stessa di Richie li convinse a continuare, proseguire, cosa che poi hanno fatto e sono ancora tra noi, se vogliamo. Ma, tra l'altro, continuarono a versare royalty sul suo conto corrente fino. Il suo conto corrente non è mai stato estinto, perché lui non è mai stato dichiarato morto, fino al 2008. Questo è una gran cosa. E poi, vabbè, l'idea del l'impegno politico e sociale è presente tutt'oggi, quindi comunque per certi versi quell'attitudine degli inizi è rimasta ancora oggi. Fundamental ways of thinking. Beh, tanto per farvi capire, le idee che avevano i Manic Street Preachers erano abbastanza aperte. Nonostante furono criticatissimi, ricordo che ebbero la sfortuna di uscire nel pieno del boom del grunge, e loro non facevano esattamente quelle sonorità anni 70, beh, avevano comunque delle idee che li portava a essere molto criticati, perché magari i critici dell'epoca non è che li capissero fino in fondo. Però questa idea di farsi remixare un brano della Bomb Squad, ovvero sia il team di produzione dei Public Enemy, veniva dal fatto che loro consideravano i Public Enemy e tutto il loro armamentario culturale che derivava dai Black Panthers, quindi con i Ministers of, insomma, con praticamente le loro guardie del corpo, quindi avere un impianto culturale ideologico dietro, insomma, i Public Enemy li avevano influenzati tanto, tant'è che riuscirono a farsi addirittura remixare il brano per la versione americana di questo brano, che era più che altro una gran tirata contro la monarchia, e in questo probabilmente i Public Enemy erano della loro parte. Beh, siamo ormai ai saluti. Come ogni sabato pomeriggio, ormai sono le 16.30, in realtà sono le 16.26 minuti, quindi un altro brano ve lo facciamo ascoltare, anzi, ultimo singolo estratto per questo lungo LP che si chiama, vabbè, non abbiamo detto, Generation Terrorist. Chissà che non avesse qualche segno premonitore, che non fosse un minimo segno premonitore, ma troppo facile dirlo adesso nel 2015. Sì, però una cosa volevo sottolineare è che con queste chitarre davvero non sembravano un gruppo inglese di quel periodo, specialmente, no, che andava molto il Britpop. E insomma, era un tipo di chitarra che andava benissimo per il mercato americano, per il southern rock, insomma, propriamente detto, più californiano. E comunque sì, un gran bel gruppo che davvero dal Galles magari non si aspetta, no? Dal Galles poi alla fine forse non abbiamo mai parlato di questo posto così famoso per altre cose che non per il rock. Comunque ci sentiamo sabato prossimo. Eravamo rimasti a Ryan Giggs. Sì, sì, anche sì, a qualcuno sportivo più che o gran bevitore. Va bene, allora sabato prossimo, ciao a tutti. Mi raccomando, è puntualissimo. Ciao.